regina della musica e della televisione. Mi sta guardando con una faccia terrificante. Eh sì, è una sorpresa, non te l'avevo detto. Gli occhiali ce l'hai, anche l'età. Lo sto guardando il foglietto in questo momento. E allora, musica dolce. E questa grande attrice, ultimamente è stata anche una suora e non solo. Adesso non con la voce da suora, ma con la voce dell'attrice che le contraddistingue in molte opere teatrali, ci leggerà e renderà merito a questa canzone, e a questa regina. Fammi sognare, Elena Sofia Ricci. Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette. I miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Più drammatica, ti voglio un momento duro. Ma girando la mia terra, sì, io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra, quando a letto l'amore c'è. Ma adesso ti voglio sul ritornello, ma ti voglio bella. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io sono pronta. E tu? Tanti auguri a chi tanti amanti ha. Tanti auguri in campagna ed in città. Questa sarà la più grande performance. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu. Questo. E se ti lascia, lo sai che si fa? Trovi un altro più bello, che problemi non ha. Tutti dicono che l'amore va a braccetto con la follia, ma per una che è già matta, tutto questo che vuoi che sia? Tante volte l'incoscienza è la strada della virtù. Litigare per amarsi sempre più. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io son pronta e tu. Tanti auguri a chi tanti amanti ha. Tanti auguri in campagna e in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu. E se ti lascia, lo sai che si fa. Trovi un altro più. Sai che quando io ero piccola io non sognavo di vincere dei premi, io sognavo di andare ospite nei programmi di Raffaella Carrà e Pippo Baudo. L'hai fatto? Sì. Mi pare quello che è stato fatto. Per me era il top, era raggiungere quello, voleva dire raggiungere il successo. Il successo, la vero. Prima volta che sono andata a Raffaella Carrà, ancora la ricordo, ero con Pupi Avati e tremavo dalla paura. Lei dà questa forza. Io ho lavorato 2 anni con la Primera Ditta, è un sergente di ferro. Sì, è un sergente, ma è adorabile, ma sì, torna generosissimo. Stiamo parlando di grandi professionisti. Sì. Ricci, tu oggi ti sei accompagnata con un uomo che è un grandissimo compositore. Io mi ci accompagno da circa 16 anni. Esatto. Tu sei l'accompagno di Stefano Mainetti. Esatto. Che noi abbiamo avuto già la fortuna di avere ospite fra i suoi vagabondaggi musicali in tutta Europa. Sai cosa ha fatto lui? Mio sposo adorato, Martino mi ha conquistato con la sua musica, con tutto, con la sua bellezza, con la sua profondità, con tutte le doti che ha. Ma ha fatto una cosa molto brutta. Anni fa registrava ad Abbey Road, negli studi del mitico Abbey Road, dove hanno inciso i Beatles. Paul McCartney, io sono beatlesiana, io sono fortemente... Non sei Rolling Stonesiana. Io sono beatlesiana e con proprio una passione. Mi telefona dagli studi di Abbey Road e mi dice: amore, sai con chi sono al bar? Con chi? Dice: c'è Paul McCartney. Cavolo, chiedegli un autografo. Sì, di una cosa. No, ma ha detto: ma no, ma dai, ma che te pare che io vado a chiedere? Dico: ma tu gli dici per mia figlia Elena Sofia, gli scrivi un autografo. C'è la mia bambina di 12 anni che è pazza di te. Esatto. Potresti scrivere? Non l'ha fatto. Ma io stavo registrando, fra l'altro, un pezzo che dopo sentiremo, no? Da Tu es Christus, un progetto con il Papa, con l'orchestra. Era trascendente quel giorno. Con la Royal Philharmonic l'orchestra che stava lì. E lei, dai, fatti fare una cosa. Dico, amore, ma c'è qui l'orchestra, stanno 100 persone, stiamo tutti pronti per registrare. No, chiedigli un autografo, dai. Sì. E invece no, ma c'è anche il Papa. Ma che c'era anche il Papa? Non mi hai detto, perdonami, non sei stato carino, dai. Adesso noi dobbiamo parlare di un suo grandissimo progetto che tu hai anche abbracciato, sì. Ma lo stiamo abbracciando tutti, ma... No, tu c'hai Paul McCartney, io ho avuto Sean Connery al doppiaggio, cioè, mi sono prostituito per farmi una foto con Sean Connery, cioè. Ma non c'erano manco i telefonini quando ho incontrato Sean Connery. E tu, no, Paul McCartney, poi per te è un riferimento importante. Ma assolutamente, per tutti. Però voglio dire, non è che se mi avesse fatto l'autografo sarebbe cambiato, rimane un riferimento comunque. Ho capito, ma parli pure bene inglese. Ma è la povera bambina, la tua figlia. Niente, mi sta andata male questo giro. E invece tu gli hai fatto però una cosa bella, perché a parte l'amore che è sbocciato 16 anni fa, per cui tu parli con gli strumenti, lei la voce, giustamente, così insieme vi completate, potete andare per i paesi e andare a fare tournée insieme, col pianoforte, lei recita. Avete fatto insieme tu le musiche e lei la protagonista di Orgoglio, se non sbaglio, sì, no? Sì, ci eravamo conosciuti da pochissimo. Beh, da pochissimo, erano già un paio d'anni, amore, ci stavamo per sposare. Perché a te ti sembra, io ti amavo, mi sembra pochissimo, per te era un'eternità perché già ti eri stufato. Cioè, forse avete sbagliato, questo è Boys Anatomy, non è il programma. Era una vita che stavamo insieme, 2 anni. Ho capito, ma Boys Anatomy non è novella 8000, cioè, vabbè, ma insomma. Noi siamo una coppia gioiosa, e non posso dire altro, siamo degli scherzosi. Ma ecco. Questo è bello così, bisogna andare inside le persone che arrivano qui, sennò diventa intervista. Ciao Carella, quando hai cominciato la tua carriera? Anche comunque lui si è scritto, ma no, non si no, dicono la tua. No, siamo sdoganati da Cruciani. Ah, vabbè. Siamo sdoganati da Cruciani. Invece, visto che l'abbiamo la musica di Orgoglio, prima di cominciare quel a parlare quel tema di... lì che ascoltiamo è dedicato proprio a Elena, perché casualmente non è la protagonista del... che Elena. Era proprio la protagonista lei, però di lì a poco ci saremmo sposati, non ho fatto fatica a scrivere il tema d'amore per colei che di lì a poco sarebbe diventata mia moglie, per cui coincide, dato... no, voglio dire questa cosa. Dilla. Normalmente un compositore di musica da film si deve innamorare velocemente della protagonista, che magari non ha mai visto. Lì è stato facilissimo perché era già tutto compiuto, no? Quindi peccato che mi vedeva la mattina anche in casa quando mi alzavo, non ero esattamente come esatto. Per questo scrivevo dopo la musica comica per la premiata ditta, mi rifacevo. Però no, voglio dire, no, a parte gli scherzi, il tema d'amore di Orgoglio è dedicato a mia moglie, non solo ad Anna Obrofari, che era la protagonista. Obrofari, un cognome che non si può sentire. Esatto, ma anche alla protagonista della mia vita, Elena Sofia Ricci. Ragazzi, questa è una dichiarazione d'amore a tutto tondo, ragazzi. Bene, stanno venendo le orecchie cariate. Ci sono chi i cuoricini dentro il studio. Sì, una cosa che la gente si sta sturbando. Allora, sentiamolo invece. Ovviamente questo tema bellissimo, Orgoglio, Stefano Mainetti, dedicato non a Brofari ma a Ricci. Eccolo. Noi proviamo sempre con Stefano, siamo amici da tantissimi anni, i suoi temi che fa per le composizioni, per il cinema, per la televisione, provando poi la voce sopra. Se funziona, vuol dire che il tema funziona in qualche modo, cioè c'è quella coesione, dice, ah bello, ci sta. E poi, con insomma, la tua voce. No vabbè, poi anche altre voci dei colleghi, strepitosa, per carità. Però questo è bello, e poi Stefano con te tipo, parleremo perché non sei andato in America. Sei in America, ci sei stato. T'hanno voluto, ti volevano lì, ma tu hai preferito rimanere qui. Quello è sempre colpa della vita. È questa, io mi faccio fallitica oggi. Cioè, dopo che hai lavorato con regista di Rambo, regista di Highlander, eccetera, tu dovevi rimanere lì. No, ma si sta benissimo in Italia, voglio dirti questo. Ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, al mio fianco Stefano Mainetti, compositore straordinario di colonne sonore, di teatro, di cinema, di fiction, di TV, di radio, anche perché questo tema è il tuo. È vero, questo qui è un, per esempio, è un tema che facemmo per un programma, per uno spettacolo teatrale di attori che adesso non ricordo esattamente chi premiata fosse. Ditta. Premiata ditta, sì, premiata, ed era Soap, un premio, Soap. Era una commedia molto divertente, intitolata Soap, e io registrai, cosa che si fa molto raramente, devo dire Pino, per spettacoli teatrali, con un'orchestra di 60 elementi, quindi questo tema che sentite sotto è l'orchestra sinfonica della radio nazionale nazionale bulgara a Sofia. Che sono bravissimi, sono, non è che sono eccezionali. Sono andati in Bulgaria perché costano meno. No, sono eccezionali, sono bravissimi. Sì. Loro ci ascoltano, lo sai, Pino? Sì, sì, sono sicuro. E li salutiamo, quindi sono sempre molto grato alla loro arte, alla loro sapienza. Lì ci incide Morricone, Pino Donaggio, tutti ci siamo, da tutto il mondo. Ci si va, bravissimi. Ed è dall'Orchestra Sinfonica proprio della Radio di Sofia che ha registrato questa... Questa era soltanto l'intro di questo premio. Questa sigla... Eccola. Sì, era il premio che vinceva la miglior soppopera dell'anno. Che quel periodo poi c'era questa battuta all'interno che adesso non fa più ridere, ma prima, quant'era, 20 anni fa l'abbiamo fatta. 20 anni fa, sì. E c'era un momento nella soppa e diceva: quel bambino che porti in grembo non è tuo figlio. Che era impossibile immaginare cosa del genere. Io dice: ma dai, com'è successo? Adesso c'è questa possibilità, fra virgolette, con... ma non vogliamo entrare in innesti scientifici e medici di altra natura. Comunque sì, questa, tu sei tutto tondo, tutto questo. E dall'altra parte chi ti riempie la vita, e tu la riempi a lei, e lei a te, è la Sofia Ricci, che tanto oggi è diventata un'intervista sì tecnica, sì diretta. No, io oggi sono qua in versione di moglie. Testimonial oggi di questo per Elena Sofia Ricci torno un'altra volta. Sì, però questo renderingrevolution.net, vi ricordo se volete andare a vivere questa esperienza intanto virtuale, ma poi sarà fisica quanto prima, perché veramente entusiasmante. Sì, guarda, Ernesto Assante, che è veramente un grandissimo genio, giornalista, è rimasto molto impressionato quando venne a casa a vedere il progetto e ha detto: ma questo passerà nella storia della musica, perché non è mai stato fatto prima una composizione, solo, diciamo, soltanto l'aspetto musicale è già totalmente rivoluzionario, innovativa. E nuovo, in più tutto il resto. E a Stefano l'altro giorno ha detto: dice, nel tuo biglietto da visita devi scrivere esploratore. Esploratore, è vero, insieme. Perché tu sei un esploratore. Bello. Perché sì, tu hai assaggiato. E anche Nicola Piovani gli ha scritto una bellissima dedica definendolo un pioniere, no? Le ha proprio scritto. Sì, che poi sembra una cosa così difficile e anche lontana. Anche molto generoso. Bella, Nicola, no? Perché è un grande compositore. Insomma, anche sempre molto umile nella sua grande... Molto, molto carino, generoso e un grandissimo musicista. Beh, sì. Assolutamente, no, ma la cosa bella è che parliamo di una cosa che è molto più nazional popolare, tra virgolette, del racconto. Sì, sì. Perché io sfido chiunque a non farci una passeggiata all'interno di un museo e entrare al centro di questa sala con questi violoncelli rivolti verso questi quattro corridoi che stanno facendo intanto all'unisono una loro musica. Sì. Ma poi tu prendi un corridoio, ti comincia ad abbandonare il quintetto e ti rimane nell'orecchio soltanto il singolo violoncello dedicato a quella sala, che si comincia poi a fondere mentre finisce il corridoio con la musica che racconta il quadro, che sia un tango, che sia un'altra è cosa. È molto bello, una specie e ci sta, di... E ci sta, tu dici, com'è possibile? È una specie in ogni momento. Di labirinto, no? Che attraversa anche stati d'animo diversi, perché si passa da uno stato d'animo, no? Che la musica ti suggerisce ad un altro, quindi anche dal punto di vista psicologico è molto interessante, perché tu ti muovi secondo il tuo desiderio e vivi diverse emozioni, diverse situazioni emotive, perché chiaramente la composizione scritta per Guernica non è proprio rassicurante, come non lo è quello di Carcere di Invenzioni di Piranesi. Poi arrivi sul tango, invece il tango vola, è bellissimo, Anche quella... E la multimedialità pure è stato un impegno gigantesco a Cinecittà, con il green screen, con i danzatori, con registi, cioè sono, quanta gente si è... Una quarantina di persone ci ha lavorato, sì. Per 2 anni. Per 2 anni, 2 anni buoni a pieno ritmo. Perché... Ma poi era bellissimo per me che ero in casa, no, a fare la moglie, basta in quei casi. Ma cucina bene la Ricci? No, io sono una schiappa. Una domanda di riserva? Sì, una sega vera. Una vera sega, sì. Proprio niente. Sei inversamente proporzionale alla recitazione. Sì, non saprei, ma insomma... No, vabbè, insomma, quello l'hai consolidato, sì, dai. Ma... E comunque era bellissimo vedere, perché no, io ho visto nascere chiaramente il progetto dalle prime note, ogni giorno. Sei a numero uno dei surgelati, mi sta sì, Valerio. Fortissima. Saluto Valerio e Rachele e i miei autori, Alessia. No, so fare molto Mauro. Bene l'uovo al tegamino. Sei però. Strepito, eh? Sì. A me mi si attaccano pure quelle. Ah, ecco, vabbè. Insomma, vedendo questo progetto crescere giorno dopo giorno, era bellissimo anche vedere i collaboratori che si sono succeduti a casa, venivano, facevano, pensavano, parlavano. E seguire Stefano sembrava il pifferaio magico, sai, quando non sai bene dove stai andando a finire. difficile, perché anche Stefano stesso non, tu quando hai iniziato di andare a finire qua, questa è una bella provocazione. È vero, però, perché io avevo un'idea di massima sul progetto musicale, su quell'idea che abbiamo spiegato prima di sfruttare lo spazio in maniera differente nella musica. Per il resto è stato grazie al feedback continuo con tutti, il direttore della fotografia, i coreografi, tutti come nascono le cose belle, è una collaborazione di tutte queste persone che io ringrazio. L'ho fatto in conferenza stampa, lo rifaccio ora e appena posso lo dico, perché è un lavoro corale, è un lavoro che mi ha permesso di confrontarmi continuamente con delle persone, dei grandi professionisti. Tutti i lavori dovrebbero essere di squadra, sempre. Cioè, lui aveva delle intuizioni e tutti gli altri gli andavano dietro, diceva sarà una follia, ma è fighissima, facciamola. Perché sul set non è così, se l'ultimo degli elettricisti che tira il filo sta contro, è finita. La società che ha realizzato la parte, diciamo così, delle proiezioni che tu citavi, girate dentro Cinecittà nel Green Studio, che è l'unità C1, sono quelli che fanno le proiezioni su destrutturando i monumenti, no? Hai presente? Sì, quelle cose pazzesche. Hanno fatto un lavoro incredibile, Gianni Stabile se ne è occupato, e poi la post-produzione dove ci si muove virtualmente, Federico Giorgi, io li ringrazio, li chiamo giornalmente per ringraziare, perché sembra uno lo faccia per piacere. Ma è vero che è un lavoro di feedback, ti rientrano, tu trasmetti un'idea, poi si elabora insieme e viene fuori una cosa che senza la loro collaborazione sarebbe stata diversa. Quindi quando uno dice la frase fatta, senza di voi questo progetto non sarebbe stato lo stesso, è vero, in questo caso è proprio così. Bella, abbiamo la musica di Rending Revolution, un momento? La possiamo scaricare in qualsiasi momento, ma adesso mi trovi sprovvisto, perché non me l'hai detto prima. Hai ragione, però io ci sono tante di musiche tue. Ad esempio, proprio di Voice Anatomy, tu sei stato l'unico che si è attraversato quasi tutti i papi con la tua musica, perché hanno accettato musicare da te. Ho avuto questa fortuna. Parte l'ultimo, ma non l'ha fatta con nessuno. Vicino, oltre alle colonne sonore, ho avuto la fortuna di scrivere dei progetti sinfonici che hanno coinvolto sia Papa Wojtyla che Benedetto XVI, ho avuto la fortuna di conoscerli entrambi e di lavorarci, quindi questi progetti, perché sono immagino Stefano col Papa, è vero. Secondo me mettiamo un quartetto dark. Ma è bellissimo quando nel 2000 per Abba Pater gli consegnammo la copia zero, venne il presidente della Sony, la Sony americana, Peter Gelb, con una copia fatta di cristallo, ovviamente una scultura, e a Piazza San Pietro eravamo io, lui, il produttore, Barry White, i musicisti, consegna, e Peter Gelb in inglese consegna questa copia zero, questa scultura al Papa, dicendo santità, questa è una copia zero, non si può ascoltare all'interno, non si può mettere dentro un CD. E Wojtyla lo guardò, esattamente questo. Per favore, è una scultura. Però un momento, adesso a parte la battuta, un momento eccezionale. È stato per me un grande onore poter lavorare con indimenticabile, assolutamente una persona eccezionale. E dico sempre che se non fosse avendo avuto l'onore di poterlo conoscere, che se non fosse stato Papa, se non avesse percorso quello che ha fatto, il percorso di, se non avesse fatto il percorso di fede, avrebbe avuto successo in qualsiasi altro campo. Sicuramente. Era una persona eccezionale in tutti i sensi. Un esploratore anche lui, un grande esploratore di vita. Al teatro, no? Questo è il meglio di Voice Anatomy. E ora il traffico. Torniamo tra pochissimo. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta. Sanatomi. Eccoci, bentornati signori miei, sempre in compagnia del maestro Stefano Mainetti e della sua compagna di vita, nonché una grande attrice e cara amica Elena Sofia Ricci, che un po' l'accompagna, abbiamo visto, insomma, per carità, del maestro. Ma guarda, che è reciproca la faccenda, perché qua infatti noi abbiamo coniato un altro tipo di avventura che farete insieme. Scusami se questa sigla non l'hai fatta tu, ma signori, stiamo per accedere nella vita privata di Stefano Tato Mainetti e Elena Tatina Sofia Ricci. Bello sto pezzo. Questo è di Martelli. Grande. Che Sandra, barba, che noia. Mondo. Che belli. Bisognerebbe ricordarli ogni giorno, non basta teche teche sulla Rai per ricordare queste grandi figure. E grandi. Voi assomigliate, nella vita privata siete un po' Sandra Raimondo. Tratti, sì. Per le coperte. Sì. Tu c'hai freddo la notte, lei c'ha caldo, no, lei c'ha freddo. No, ci troviamo abbastanza... Ah, perché quella è la cosa che divide sempre. È sulla consistenza del materasso che cominciamo. Cioè, a lui piace più rigido, io lo vorrei un po' più morbido al momento. Beh, vabbè, non entriamo in particolari di letto, no, non entriamo. Ma il materasso, ma come siete male? Ma no, capito, veramente... però è la prima volta che la donna chiede una cosa del genere, al contrario. Comunque, no, no, no, per carità, Elena, ognuno ha i suoi gusti e tu c'hai questo gusto, per cui il maestro è fortunato. Fra qualche anno ti accontenterai di questa morbidezza. Taccio. Senti, stiamo volando dalla vostra vita a questa avventura di Rendering Revolution, a quest'altra storia che abbiamo concluso il blocco precedente di questa avventura con il Papa, meravigliosa partitura che si trova ancora, questo CD. Sì, sì, c'è il disco, Tu es Christus, sì, sì, sì. Abba Pater era il primo... Abba Pater è stato il primo disco nel 2000 fatto per il Giubileo, e poi sono stati fatti altri dischi, questi due, Tu es Christus e Alma Mater, che Alma Mater è stato registrato, come dicevamo prima, a Londra, Abbey Road, dove è avvenuto il fattaccio, mi sono rifiutato di chiedere l'autografo a Paul McCartney. No, anche perché io e Stefano veniamo da un'esperienza. Io una volta sono stato a Los Angeles e ho accompagnato il maestro perché lui stava lavorando con Ted Kotcheff, il regista di Rambo, eccetera, e con non so come si pronuncia, Malkai. Ah, Malkai, che è quello di Mammo perso l'aereo, non c'entra niente. No, Russell Malkai, che è il regista di Highlander, e lui stava facendo le colonne sonore di questi film. Ci porta Ted Kotcheff a Beverly Hills a cena in un bellissimo ristorante dove io, per fortuna, il maestro parla perfettamente inglese. Io neanche il mio cognome so dire in inglese perché è insegno, ma in America è Einsegnau, che non ho mai capito. Anche I Teach. Sì, Joe I Teach è il mio nome vero, Giuseppe Insegno in inglese. Avrei fatto molto più successo, sinceramente. E Ted Kotcheff presenta a Stefano Mainetti Quincy Jones. Viene questo piccolino, perché poi era piccolissimo, insomma, è piccolissimo, e chiede Ted Kotcheff, ti presento, insomma, Stefano Mainetti, Pino Insegno, ma Stefano Mainetti, compositore. Ah, lui fa italiano. Sì. Sì. Romano. Sì. Dolce far niente. Ah, ecco. Cioè, capito? Cioè, Quincy Jones ha fatto sto percorso. Gli voleva dare una capocciata. Dice, forse io meno, sembro un razzista. Che vuole dire? Brutto gnomo. No, no, voglio dire, sì, avendo un'ammirazione smisurata nei confronti del musicista, del produttore, certo, mi sarei aspettato un'altra risposta dopo tutto quel fiume di complimenti che gli avevo fatto. Esatto. Lui ci guardò dall'alto in basso, evidentemente era molto rilassato, fa... Where are you from? Dico, da dove vieni? E dico, Roma, Italia. Ah, dolce far niente. Dico, ecco, bene, capito, buonasera. Quincy Jones, ho bruciato USA for Africa, ho buttato il disco, Thriller, via, tutto no, dalla no, finestra. Rimane un grandissimo. Beh, ma ci mancherebbe altro. No. Insomma, sì, però siamo rimasti un po' male. Non mi aspettavo un abbraccio di Quincy Jones, segno il segno, ho visto in tutti i programmi. Abbiamo avuto l'onore di essere al forum con... Dave Grusin. Dave Grusin, grande compositore. E lui invece è stato molto, molto affettuoso, molto generoso anche con Stefano. Sì, sì, sì. Si sono scambiati il segno della pace, detto così, parlando di pace. No, si sono scambiati... sì, i numeri di telefono, no. Che cosa? Un bacio? No, no, no. Complimenti, effusioni artistiche. Sì. Ho ricordato alcune colonne sonore, fra l'altro ricordo qui che Pino è uno dei più grandi compositori, uno dei più grandi collezionisti di colonne sonore in Europa, ne ha migliaia. Sì, 12.000 rotti. Esatto, sì, 12.000 folle. Dischi di colonne sonore, e ricordavo a Dave Grusin una delle sue partiture, una delle sue prime, che era Invito a cena con Delitto, perché poi Dave Grusin, voglio dire, sappiamo che tutte, film, da Tuzzi a Lago Dorato, cioè, Paradiso Battelli, premio Oscar per Milagro, insomma, un compositore con la C maiuscola, quindi abbiamo avuto l'opportunità di sentirlo dal vivo pochi mesi fa, poco tempo fa, qui a Roma, alla Forum, è grazie a Patrignani, grazie a Marco Patrignani, che è stato bravissimo a chiudere questa operazione. Lee Ritenour alla chitarra, il figlio di Ritenour alla batteria, insomma, il nipote di Ritenour, era in quartetto, sì, sì, bellissimo concerto. Beh, cavolo, non so come venire, Dag Grusin ce l'ho nel cuore, cioè, un anche lui un ultra ottantenne, eh sì, è ultra ottantenne, sì. Come Barba, come sì, ma è un ragazzino, grandi, un ragazzino, sì, sì, sì. Come Barbacara, che anche lui si è dimenticato che ha 83 anni, la musica tiene giovani, credo. E per questo faccio il collezionista, il suo amico tuo. Non si sa mai, io non so suonare, per cui mi sono affezionato alla musica, proprio la seguo in tutto e per tutto. Questo Rendering Revolution, che io vi consiglio di andare a dare un'occhiata a questo sito, che intanto lo racconta dal punto di vista digitale, che tipo di esperienza, perché è un'experience vera. Andatela a vedere con renderingrevolution.net, lì ve lo racconta bene, aspettando che diventi una bellissima installazione dove noi italiani veramente siamo innovatori in tutto e per tutto. Perché non c'è qualcuno che aiuta queste grandi idee rivoluzionarie? Siamo un po' miopi, il nostro paese un po' a volte sì lo è, ma chissà. No, ma succederà, perché è troppo bello e le persone che si sono mosse intorno sono veramente anche loro multimediali. Fammi ringraziare il professor Strinati e il maestro Dall'Ongaro e sì, Monique Vaught, anche per sia la Fondazione Roma Europa e sia l'Accademia di Santa Cecilia, e Ernesto Assante che ha introdotto la serata. Soprattutto vedi questa signora meravigliosa francese che vive ormai in Italia, ha fondato questa bellissima realtà, Monique, che è Roma Europa. Monique sì. Parla a lei in francese, che esaltava l'Italia. Ma noi siamo esterofili, se tu guardi, noi i progetti grandi poi li prendiamo di ritorno, cioè se hanno avuto successo all'estero allora li adottiamo, però prima devono passare. Ma siamo così non solo per le opere e per l'arte, un po' per tutto, cioè la cosa deve avere successo prima nel mondo anglosassone, allora poi diventa una, oh hai visto, allora sì, allora la guardiamo anche noi, sì, allora la adottiamo anche noi. Il Nemo, profeta in patria, sì, esatto, per noi è il film di Troisi, l'ultimo, che è stato abbracciato dall'America, cioè portato all'esaltazione, sì, l'abbiamo amato anche noi il postino, per carità, ma l'America l'ha fatto proprio. Sì, sì, ma non è il solo, molti film italiani sono stati amati più all'estero, hanno vinto gli Oscar e poi noi ce ne siamo riappropriati. Sì, no? Ma vale anche per tanti settori, nel mondo della scienza, della medicina, cioè noi abbiamo dei cervelli in qualsiasi settore che vanno fortissimo all'estero, e poi diciamo perché c'è una fuga di cervelli, ma perché spesso e volentieri li adottano e hanno un environment che gli permette di sviluppare le proprie idee, di lavorare soprattutto. Mentre no? Certe persone lavorano qui nonostante ci abbiano avuto una fuga del cervello suo proprio. Perché solo guardi cervello. Me? No, guardo te. No, la fuga del cervello. No, tu no. Cervello. Tu sei al io di sopra. Io posso lavorare solo qua, no, dai studi italiani. No, di sopra anch'io, guarda, mi vogliono in America, mi hanno chiesto del coach se facevo una posa ai avvocati a New York, quella cosa lì. Law and order, ha detto vieni, rimani e faccio il pizza, quello porti le pizza all'avvocato. Ma perché? No, grazie, invece ho sbagliato. No, di fa. Avrei dovuto farlo e mi sarei vantato di aver lavorato in America, perché poi l'eco che arriva da quest'altra parte, tu invece dovevi continuare, devi continuare a insistere. Ma io sono rimasto lì più di 10 anni, facevo avanti e indietro, poi con internet è possibile lavorarci ma comunque. Ma loro vogliono che tu stai lì, io lo sai, però ti ho ricordi per a proposito dei progetti sinfonici, tutta la Bibbia che hanno registrato lì, ecco, con no. 600 attori americani, io ho fatto tutto il progetto da qui, poi sono andato lì a presentarlo. Sono 66 CD. Sono 79 CD, 79 CD, 100 ore di musica sinfonica che io ho registrato in 3 anni, e c'erano 5 premi Oscar americani. Esatto. Io in 3 anni ho fatto questo progetto qui in Europa, l'abbiamo realizzato fra Roma, Los Angeles e Sofia, però a Los Angeles a Sofia sono andato a registrare, poi in America sono andato a presentare il progetto, ma la realizzazione grazie a internet e alla comunicazione è cambiata. Negli anni 90, quando io ero lì negli Stati Uniti, era necessario essere lì, adesso si può lavorare lo stesso. Adesso Stefano Mainetti ci porterà Elena, Sofia Ricci e Pino Insegnau in America a fare un qualcosa. Allora, signori, siamo arrivati all'ultimo momento, l'ultimo minuto e 15 secondi insieme. Ringrazio Stefano Mainetti e ringrazio soprattutto Elena Sofia Ricci di averlo accompagnato fin qui a Radio 24. grazie. E vi ricordo questa operazione bellissima, a parte tutte le musiche del maestro Mainetti le potete trovare sul suo sito e andatevi ad ascoltare. Sì, è bellissimo, che pieno, sogno. C'è un'area multimediale bellissima. Esatto, stefanomainetti.it. .it.com, tutto quello che vi pare. Punto quello che volete. E Elena Sofia Ricci pure, www.venicoelenasofiarici.com. Sito privato di Elena, dove potete prendere degli appuntamenti privati, con te parleremo poi intimamente la prossima volta. Stefano, www.renderingrevolution.net. Questo è il futuro. Questo è il presente e questo è anche il futuro. Grazie, grazie, grazie per aver passato grazie questo momento grazie di domenica davvero. Insieme. Grazie a te Stefano, grazie, grazie Elena Sofia Ricci. A tra poco con i nostri ulteriori ospiti. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, una domenica veramente ricca di grandissimi ospiti. Abbiamo salutato da poco il compositore Stefano Mainetti, accompagnato da Elena Sofia Ricci, grande attrice ma soprattutto grande compagna di vita del bravo Stefano. E ora qui vicino a me ho la voce delle voci, forse anche più bassa della mia, non lo so, è vero? Vogliamo fare una gara? Ecco, hai capito? Ecco, io mi ascolterei Whoopi Goldberg, che sarebbe sì comunque Whoopi Goldberg, ma in Italia no, senza questa voce. E io sentirei il film dei film che ha fatto piangere tutto il mondo, che è Ghost, dove lei è una straordinaria medium, ma non sarebbe così straordinaria se non avesse la voce di Sonia Scotti. Nostra sorella ci raggiungerà presto. Sorella Oda Me, concedici il dono della tua onniveggente presenza. Appari davanti a noi ora. Signora Santiago. Buenos días. Sono Oda Mae Brown. So che desidera contattare suo marito. Sì. Confido di farlo venire tra di noi. Oh, grazie. Grazie. Ma lei sa, signora Santiago, che conosciamo ben poco dell'altro mondo. Perciò bisogna essere credenti, signora Santiago. Lei è credente? Sì, sì, io credo molto. Io credo a tutto. Allora cominciamo. Non riesco, non riesco. È troppo difficile. Non riesco a stabilire un contatto. Io non sento la sua voce. No, aspetta. Avverto qualcosa. Suo marito conosceva una persona, una donna che si chiamava Anna. Consuelo. Lucita. Julieta. Josefina. Linda. Maria. Sì, sì, la sua mamma. Lei si chiamava Maria. Sì, sapevo che stava insieme alla mamma, sia lode a Dio. Eccoci, allora era Whoopi Goldberg, ma soprattutto era la voce straordinaria di Sonia Scotti, che sta ridendo perché gli stavo passando una cosa da leggere. Dice, fammi cambiare gli occhiali, Sonia. Non vedo niente, sono una talpa. Ma sei una talpa, Sonia Scotti. Comunque di qualche anno fa questo film. Sì, beh, da qualche anno fa, ma un film che resterà per sempre. Sì, certo. E soprattutto ogni anno lo ripropongono, perché ogni anno, ogni due mesi lo ripropongono. È un grande film. Ma dai, bellissimo. Chi era il direttore di doppiaggio di questo? Il direttore di Ghost era Renato Izzo. Il grande e indimenticato Renato, che sì, raccontiamo, ovviamente lo salutiamo ogni domenica, perché chiunque si avvicenda a questi microfoni, certo, ha avuto a che fare, certo, con Renato Izzo. Comunque Ghost non è il primo film che io ho doppiato di Whoopi Goldberg. No, non è il primo. Era Fitta si ladra, sì, che era un film comicissimo, che è andato molto poco in giro, però bellissimo. Sì, non hai fatto solo quelli su Whoopi Goldberg, perché no, l'hai doppiata quasi sempre tu. No, vabbè, non ne ho tu fatti tanti. Sì, sì, sì, anche la voce Glenn Close, Judi Dench, poi nel film di James Bond, che dopo ci ascolteremo. Tu sei Sonia Giulia Marinelli. Allora no, raccontami io sono Giulia Sonia Scotti. Mia madre in seconde nozze, perché mio padre era morto, che era Scotti, ha sposato Marinelli, che io avevo due anni, quindi... Ah, per cui è un'acquisizione, sì, in, sì, corsa. Sì, però per me mio padre è Marinelli. Poi, cioè, non lo conosco. Sorella del bravissimo Eugenio. Eugenio, Marinelli, che madre presto... di Rachele. Madre di Rachele. Rizzoli, famosa, no, pure Rizzoli. Pure peggio dei principi di Danimarca. Quanti, yeah, cognomi, è quanti... È una dinastia. Che poi... È una dinastia. Esatto, e poi Eugenio è il papà del bravissimo Marinelli. Di Luca. Di Luca Marinelli, sì, un attore che speriamo di avere almeno per telefono, visto che vive in quel di Berlino, lontano, sì, da qui. Forse ha capito prima di tutto, è stata la prima fuga dei cervelli dall'Italia. Beh, vabbè, non esageriamo, però beh, no, sì, è bravo, sì, è bravo, per bravo, amore, per amore lì, per lì, amore, ah, siamo, lì. Noi sempre così, non per scelta, dici, no, te che è andata a vivere lì per una scelta, no, artistica, no, no, no. Tu per amore dove sei andata a vivere? A Roma? Ma io per amore sono rimasta, nel senso che io vivevo in Argentina, infatti, perché a nove anni di mi hanno avventura portato in Argentina, sono venuta in Italia. T'ha fatto tornare la Garra in Italia? No. Non ho capito. La Garra t'ha fatto tornare in Italia? No, no, no, no, no, miracolosamente no. Sei una dei pochi, no, dall'Argentina, no, sì, sì, che non, no, è tornata, no, per, no, la Garra. Io sono tornata in Italia per incidere dei dischi e ho conosciuto il padre di mio figlio e sono rimasta in Italia. E di questo ne parleremo, perché ecco una cosa che ho scoperto strada facendo, ti conosco, ti rispondo. respiro da tanti anni e sai quanto ti voglio bene e quanto ti vogliono bene, ma non sapevo questo tuo trascorso bellissimo, intenso come cantante. Sì, non come cantante pura, no, diciamo come ascolteremo un momento. Showgirl, perché showgirl. Ho cominciato a 15 anni in Argentina, dove cantavo, ballavo, recitavo fino ai 20, quando poi sono venuta via. Vedi che bella storia. Poi soprattutto in pochi possono vantarsi di aver debuttato in un film di Visconti, Sonia? Eh sì. Tu l'hai fatto nel film bellissimo, in cui canti Trieste mia. Il mio primo contributo. Che ricordi hai di quel avevo momento? Avevo 5 anni. 5 anni? Sì, io un ricordo vivissimo, sia della Magnani che di Walter Chiari, perché allora si usava così, eravamo tutti lì per 3 mesi, due pose per tre mesi lì a Cinecittà. Ma anche per così poco uno... Sì, allora si faceva così. Si faceva così, c'era tempo, sì. Anche per doppiare c'era tempo, non sì, ti ricordi? Esattamente. E di Visconti e di Zeffirelli, perché Zeffirelli era l'aiuto regista. Franco Zeffirelli era l'aiuto, è vero, sì. Di Visconti. E faceva il cretino con mia madre. No! Che è nel film, perché la mia vera madre era nel film. Nel film. Sì. Allora ogni tanto si sentiva Visconti che diceva «Zeffirelli, non faccia il cretino!» Ecco perché ho usato quel termine, perché certo, l'aveva usato. Certo. Visconti. Dopo tanti anni, mi sono trovata con Pino Colizzi in sala di doppiaggio per doppiare... oddio, adesso non mi viene il nome, comunque era Glenn Close, un film di Zeffirelli famosissimo, l'Amleto. L'Amleto, scusa, sono anziano. Ma che sia, sì, sei anziano. Deve essere i tuoi colleghi dei 40 anni che stanno qui. Non sì. Mi ricordavo di aver fatto questo film. No, questo è vero, però. E in sala un giorno, mentre io stavo facendo il monologo della regina, certo, che faceva Glenn Close, mentre lo stavo provando, si apre la porta e entra Zeffirelli. E a mia insaputa, io non avrei voluto che Pino Colizzi facesse questo, ma l'ha fatto. Ha detto, Franco, lo sai chi è quella? Io, dice io. E Franco, no, non la conosco. Certo. E Pino, beh, dice, questa è Sonia, quella che cantava Trieste mia. Ma bellissima. Franco rispose, mamma come sono vecchia. E così, insomma, vabbè. Un grande Franco, carino, che sì, sta sì. Benissimo, ultra novantenne, so, ormai. Sì. Peccato. Un bel genio. Sì, di grande sì. Classe. È bello che l'hai respirato insieme con un film solo, tu, questi geni. Ma... anche Walter Chiari, a Magnani. La Magnani, Firelli, la Magnani non, francamente io non l'ho amata molto, non era molto carina con i bambini, perché eravamo tanti. Non era molto carina perché lei aveva questo problema con il figliolo. Sì. Quindi diciamo che ci viveva, ma molto a distanza. Invece chi mi adorava era Walter Chiari. Sì. Chi mi adorava era Walter Chiari. Che uomo, eh? Simpatico, buono, ogni tanto mi prendeva in braccio, carinissimo. Quanto sono stati decisivi i tuoi genitori nella tua carriera, Sonia? Ma mio padre no, perché non ne voleva sapere, ma mia madre è stata decisiva. Mia madre era una cantante di Radio Bari all'epoca degli americani, ed era l'unica alla quale permettessero di cantare in inglese, perché diceva che ha un'ottima pronuncia, cosa che poi non mi ha tramandato, perché io odio l'inglese e non lo parlo e non lo voglio parlare. Vabbè, è una cosa mia, non lo so, sarà perché sono nata sotto gli americani. Allora non, so. Non mangio gomme americane, non fumo sigarette americane. Va bene, no, scherzo. No, vabbè. E fu lei che mi portò. Dice, Sonia farà una grande carriera, questo l'ha sempre detto, grande carriera non è successo, però insomma, beh, insomma comunque ho vissuto tanti anni con questo mestiere. Beh, quello sicuramente aveva ragione. Ma sì. Hai fatto una carriera trasversale, sì. Veramente importante. Ora voglio sentirmi il tuo pezzo musicale nel prossimo blocco, perché manca 1 minuto e mezzo a fine questo. Il mio pezzo musicale, dove l'hai preso? L'abbiamo trovato. Oh Madonna. E adesso non so la pronuncia esatta. Entre il gentio. Entre il gentio. Eccolo, gentio, vedi? Sì, anch'io sì, so sì. Per le lingue, so un po' un disastro. In inglese cerco, parlo con le fasi idiomatiche che scopro nei film. Vivo con quelle. Io non sopporto. È più forte. Infatti... Vedo un nome inglese e chiamato un altro, e così sì, sì. Ah sì, non pronunci proprio anche nei no, film no, che è una difficoltà abnorme per me, sì, cosa che non ho con lo spagnolo naturalmente. Beh, ma ovvio. Con il francese, con il tedesco, niente, mi viene tutto facile. le pronunce con l'inglese, con l'inglese. No. Allora, ci deve essere qualcosa nel mio passato. Sì, un inglese che ha approfittato di te in qualche modo. O sono figlia di un americano, perché sono del 45, io luglio del 45 a Bari, c'erano gli americani, c'è tutto. È successo qualcosa lì. Non hai chiesto bene a mamma approfondimento. Chi assomigliavi? Assomigliavi a mamma o a papà? Il ritratto di mia madre. Di mia madre, di tua madre, questo non toglie però il dubbio. No, perché... no, non me lo leverà mai nessuno. Esatto, sai, quel momento di grande gioia, felicità, ci hanno liberato. Sì. Vabbè, ma non vogliamo indagare su... No, non indaghiamo. Una catena del DNA, lasciamola da una parte. Esatto, l'importante ci sei tu. Senti, io mi sentirei intanto un altro bel doppiaggio della tua vita artistica, che parlavamo prima di Judi Dench. 007. Comincia, beh, ma assomigliate pure. Sto capello bianco, allora, in un certo modo, questa fisicità importante. In un inglese che io non so ripetere, ho incontrato, credo, al quinto o sesto film, i produttori. E mi disse: "You are not the voice of Judi Dench, you are Judi Dench." Beh, sì. Io dentro di me dicevo: "Vabbè, con 20 centimetri di più, perché lei è piccola, piccola, è piccolina, piccola." Sì. Sì, e tu sei una bella donnona. Vabbè, però dai, ci sta, insomma, tutto il percorso è totale. Grandissima attrice, piccola, ma... Quando uno fa l'attore, non fa il doppiatore, fa l'attore e mette a disposizione. Allora, sentiamocela. Judi Dench in corpo e voce di Sonia Scotti, 007 Skyfall. Presidente, ministri, oggi ho sentito ripetere quanto irrilevante sia diventato il mio dipartimento. Perché ci servono gli agenti? La sezione 00 non è tutto antiquato? Ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra pochissimo con il meglio di Voice Anatomy. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Voice Anatomy. Ben ritrovati, signori miei, a Voice Anatomy in questa speciale versione estiva in cui abbiamo deciso di riproporvi il meglio di quanto è andato in onda nel corso dell'anno. Continuiamo quindi ad ascoltare alcuni dei numerosi ospiti che ci sono venuti a trovare nel corso di questa stagione radiofonica. Voice Anatomy. Sonia Scotti è rimasta per presentare degnamente l'ospite alla mia sinistra, che mi ha trattato malissimo, nonostante io gli voglia bene. Lui ha proferito dei verbi impronunciabili, però io, con una bella musica di sottofondo, presenterei il nostro ospite così. Grazie, Sonia. Il tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più, le corse in bicicletta a primavera, il vento profumava anche di te. Di questo tempo in due, solo fotografie. E così lontani noi, pensiamo ancora a noi. Ricordo ancora quel giorno del primo bacio a Napoli, ma non è giusto pensarti stasera. Il tuo cuore ha già un battito nuovo, parla male di me senza alcuna pietà, anche se tutto questo so il male che fa. Sì, stasera t'avesse vasà. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. E la paura di quel temporale come ci stringeva. Le nostre liti sui capelli e gli occhi, immaginando un figlio. Tu disegnavi pure il suo profilo e poi strappavi il foglio. Non dirgli mai di com'è stato bello quella notte al mare. Dietro una barca aspettavamo stretti che arrivasse il sole. Di quella volta, per un tuo ritardo, ci tremava il cuore. Quel falso allarme ci teneva uniti senza far l'amore. Il tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più, corsa in bicicletta primavera, il vento profumava anche di te. Di questo tempo in due solo fotografie. È così lontani noi, pensiamo ancora a noi. Ricordo ancora quel giorno del primo bacio a Napoli. è giusto pensarti. Stasera il tuo cuore ha già un battito nuovo. Parla male di me senza alcuna pietà, anche se tutto questo so il male che fa. Se stasera d'avessa vasa, tutti insieme siamo stati a letto per eccolo giorno. Eccomi qua, buongiorno Gigi D'Alessio. Vai bene, una presentazione così, Gigi, hai visto una voce, no? Meravigliosa, cioè, che... quasi quasi, che ci fai tu qua, lasciaci da solo. No, Gigi, ma no, lei è rimasta per sublimare la tua presenza, appunto, appunto, perché non sublima anche la tua e te ne vai. Beh, e ci lasci da soli, perché la... vedi ma... com'è bello sentire un... Se... è diventata una poesia, vedi, esatto, ma perché è una poesia di partenza, qui a Boys Anatomy si studia proprio questo, non ci sono solo cantanti, attori, doppiatori, ma vocologi, antropologi della voce. Pensa, la voce è tutto. Che questa è una canzone che non ripete mai, praticamente. No, è vero, cioè, perché poteva leggerla tutta, è sempre diversa, è sempre, ma così diversa. È una poesia. Una poesia è così, hai ragione. Questa quando è nata? Era... Questa è nata nel 2000, nel 2000, primo festival di Sanremo. C'ha 17 anni, tra un anno diventa maggiorenne. Esatto, facciamo gli auguri. Sì, facciamo gli auguri. Perché tu nasci a Napoli il 24 febbraio del 67, che poi è il titolo dell'ultimo album. Esatto. Infatti la carta d'identità, c'era la foto prima, è Mauro Meconi, uno degli autori, ha detto: ma perché mi ha dato la carta d'identità di Gigi? Fatto, no, quello... Non potevo mettere la carta di crediti, capito? L'ho messo quella carta d'identità. Questo è, infatti volevo fare un percorso filologico con te. Ma mettere la carta d'identità significa non avere segreti. No, tu poi c'hai una faccia che l'età tua non è vera quella. C'è il tuo figlio che sembra più grande di lui, Sonia, mi devi credere. È un pischello di 50 anni. È incredibile. Anni. Comunque, capito? Penso qualcuno... Qualcuno mi ha richiamato dicendo: ma perché sei alto 1,80 m? Perché c'è scritto che sono alto 1,80 m? Io sono 1,80 m. Siccome quando ti vedono in televisione, sai come schiaccia e allarga, a me lo dici. E quindi sì, è alto 1,80 m. Insomma, è venuto qualcuno col metro a misurarmi se veramente sì. So, meno male che non ho scritto occhi azzurri. È vero, ma che stai a dire? Capelli, stavo scrivendo poco. Pochi. Postdatati. Capelli postdatati. Con dei colpi di carne all'interno. E quindi non avere segreti. Mi sono fatto questo regalo per il mio compleanno. È uscito il giorno del mio compleanno questo disco. E era un modo così. Per ringraziarti. No. Ho fatto sta torta, ci ho impiegato 9 mesi. Esatto. Per aprirla e tagliarla insieme, insomma, al pubblico. Era un modo carino di festeggiare insieme. Esatto, un modo per festeggiare insieme. Ma tu ce l'hai questa cosa tridimensionale molto osmotica col tuo pubblico. Alle mie feste insieme a mancare. No, esatto, perché si mangia gratis. Esatto. E si viene, è soltanto che si lavora. Senti, adesso sta pigliando un caffè. Hai parlato, ma andiamo dal primo all'ultimo, nel senso, visto che hai fatto tu questo escurso, se invece camminare all'interno. Sì, ma mi fai ringraziare Sonia, sì, come si dice. No, ma Sonia resta, mica se ne va. No, lo so, no, ma come non posso per come perdervi. Ha declamato. Sì, ma per come ha declamato la mia, cioè veramente ha guadagnato 1000 punti. Esatto. Siamo tutti quelli con la puzza sotto il naso, dice: ammazzo, guarda D'Alessio, ecco, che ha scritto. Ci sono voluto 17 anni per farglielo capire. Adesso tira fuori buona morte, la leggo io. Esatto. Voglio vedere che significa. Potrebbe come essere suona. Un'idea per un nuovo disco. Bravo. La canzone e poi detta. Anche la tua non sarebbe male. E me la fare tutta quanta così, però. Tomaglione lungo sulle mani, quel seno che non è mai cresciuto mai. E no, gliela devo rovinare in qualche modo. No, ma dopo ne facciamo un'altra, casomai, perché è molto divertente questo esercizio di stile. Dicevo, abbiamo parlato di Non dirgli mai. Andiamo allora all'ultima, a sto punto, alla prima stella, la prima stella, che è il pezzo di Sanremo. Che sì, il pezzo di... La prima stella è... Io l'ho scritta chi per è la mia prima mamma. Stella? Mamma. Io l'ho scritta per mamma, perché l'ho persa 32 anni fa. Oh, mamma, troppo. E quindi... troppo tempo. No, ma la mamma non ha età. Lo so pure io. Cioè, puoi avere anche 130 anni. Sì, sì. Perché l'abbraccio di una madre non lo trovi più da nessuna parte. Il calore, la sicurezza che ti dà la mamma non la trovi in nessun posto. E ti mancherà sempre. Io... Perché è come una finestra che si chiude e poi lì ti rendi, cioè tu si diventa genitori quando non si è più figli. Ma si è sempre figli, secondo me. Uno non riesco a dire. Io non c'è un giorno in cui succede qualcosa di bello, di brutto, che non viene grazie. Quell'attimo mamma di fare quella telefonata per avvertire a casa. Purtroppo io che la telefonata su 32 anni non posso fare. Ma soprattutto non è che non ha visto la mia carriera, perché sai, la carriera comunque è una cosa, ma non ha potuto vedere i miei figli. Cioè lei non ha visto suo figlio crescere. E allora io stavo scrivendo, c'avevo questa musica, e dicevo vorrei, ma non capivo cosa volevo dire. E poi dopo ho capito, una volta Mogol mi disse: nelle tue musiche ci sono già le parole, devi solo cercare di trovare quelle giuste. Beh, non è male, questo è come Michelangelo che dentro lo dice, come fai? Sta già... No, lo disse, già sta dentro il marmo la statua che sto tirando fuori, sta già lì. E Mogol mi disse questo, e io ho scritto La prima stella. Questa è La prima potessi stella. Avere io le ali e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato. La prima stella accesa è quella che non si spegnerà mai. No, ma sai che c'è? Che poi te la vai a cercare, no? Perché io l'ho dedicata a mia madre, ma credo che ognuno di noi ha una prima stella, no? Sì. Che può essere un marito, che può essere la nonna, che può essere una persona cara che non c'è più. Ma soprattutto ci tenevo a dire a mia madre, perché adesso poi l'abbiamo sfumato il pezzo, ma nella seconda strofa io dico: tu non sai le cose adesso come stanno qua, che adesso un fiore nasce pure senza sole, che un figlio può arrivare anche senza far l'amore, e chi è pronto per morire non ha una croce al muro, cioè tutti gli attacchi, sì, che sentiamo, che c'è una porta aperta sopra il mare per chi da guerre cerca di fuggire, sarebbe Lampedusa. Ma soprattutto che dal vecchio male ci si può salvare, ed io avrei potuto vederti invecchiare. Mamma mia. Belle. Cioè, nel senso che, sai, purtroppo sì, il vecchio male è, diciamo, il cancro, no? 32 anni fa non c'era tutta questa conoscenza, questa prevenzione, non si sapevano tante cose. Oggi magari è un male che se tu becchi in tempo lo puoi, soprattutto consiglio agli uomini arrivati a 50 anni, alla colonoscopia, sì, alle donne, alla mammografia, oramai sono diventato un esperto. Parlavamo prima del suo grande marito, anche lui un bravo doppiatore, che ci ha salutato qualche anno fa proprio per questo brutto male, l'abbiamo ricordato. Io ho perso mamma, papà e un fratello 5 anni fa. Sì, quindi tuo fratello è stato un momento veramente drammatico. Tra l'altro tu l'hai conosciuto. Sì, molto. Quindi questo ho voluto dire in questa canzone, quindi parlare di me, ma poi andare a dire anche toccare delle cose importanti di oggi, cioè che succedono oggi. Eh sì, la stella polare ce l'abbiamo chiunque, questo è bello, è un bellissimo. Perché poi quando vedi la prima stella che luce, cioè, quella è mia madre, oppure quella è mia nonna che mi sta guardando. Bravo. Lo facciamo tutti. Ai miei figli dico: vuoi dire una cosa? Saluta nonna Romana, che sta lì. Esprimi un desiderio e quella stella te lo riporterà. Bravo. Quando sarai più grande. Gigi, grazie davvero. Siamo arrivati alla fine di questa puntata del Meglio di Voice Anatomy dell'anno, ma niente paura, eh? Domenica prossima saremo ancora qui per riascoltare altre chicche della stagione. A presto, signori miei.